Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, continuiamo la nostra ricognizione fra le strenne possibili. Oggi ci occupiamo di musica e toccheremo tre generi molto differenti. Questo l'avrete riconosciuto, naturalmente Mozart, il direttore è Herbert von Karajan, il leggendario direttore d'orchestra, al quale è stato dedicato un libro in occasione del centenario della nascita che cade appunto quest'anno. Karajan poi sarebbe scomparso nel 1989. Il libro che vi propongo, dal titolo omonimo e dal sottotitolo Lo stile di un maestro, è pubblicato da Le Mandi, 118 pagine, 30 euro, ed è curato da Vittoria Crespi Morbio. Questo è soprattutto un libro fotografico adatto agli appassionati di musica, ma soprattutto ai tanti fans di questo grandissimo maestro che certamente ha segnato la storia musicale, la storia dell'esecuzione del Novecento e che riuscì anche a diventare un'icona del jet set ed è un protagonista delle cronache mondane. Sentiamo un tratto della sua personalità, una personalità piuttosto complessa, così come ci viene presentato nell'introduzione di Vittoria Crespi Morbio e Francesco Maria Colombo. Vi faccio ascoltare alcune righe. Herbert von Karajan è sempre stato, da bambino, un essere umano che ha dovuto esibirsi per gli altri, al quale gli altri hanno sempre guardato come a un punto di riferimento, rivolgendosi a lui infinitamente più di quanto non fosse lui a rivolgersi a loro. E l'esibirsi è dovuto divenire dimensione consueta, non in un istrione estroverso, qual era per esempio Leonard Bernstein, ma in un bimbo timidissimo, fragile, dalla complessione minuta, dall'eloquio poco sciolto, l'antitesi dello showman. È divenuto dunque profondissima disciplina, concentrazione e applicazione, tenace dominio di sé. Fin dai primi concerti come pianista, le cronache ci parlano di un musicista calmo, assorto, precocemente maturo. Alle medesime qualità si riferiranno puntualmente le prime recensioni del direttore d'orchestra, che allo stesso modo rileveranno il gesto parco, contenuto, privo di qualsivoglia enfasi esteriore e al contempo forte e imperioso. Forse da questa tensione fra un'indole introversa e la necessità di piegarne i rischi, acerbare intatto il carisma del ruolo direttoriale, deriva la paziente, accortissima, puntigliosa costruzione da parte di Karajan della propria immagine. Innanzitutto nel gesto sul podio, uno dei gesti più flessuosi, più sciolti e più liberi, ma anche più misurati e funzionali che un direttore d'orchestra abbia mai avuto. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Abbiamo cambiato genere, naturalmente questa era Patti Smith, alla quale è dedicato un altro libro fotografico curato da Steven Sebring, che si intitola Patti Smith, Dream of Life, è pubblicato da Rizzoli, 438 pagine, 45 euro, tradotto da Franco Zanetti. La cantante, poetessa, nonché musicista rock è qui presentata attraverso una serie di immagini che sono illustrate dai versi delle sue composizioni e nel libro troviamo anche una serie di polaroid che vennero scattate dalla stessa autrice. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Questo invece era Johnny Cash, il cantante scomparso 5 anni fa. A lui è dedicato il libro di Steve Turner, Johnny Cash, la vita, l'amore e la fede di una leggenda americana. Kowalski, 448 pagine, 24 euro, tradotto da Ilaria Katerinoff. Cash fu un musicista inconfondibile, un protagonista della musica country, dalla vita tormentata con lunghi periodi di cedimenti alla droga, riscoperte spirituali, raffreddamenti nella fede, fino all'abbandono finale nella religione, protagonista di tournée nelle carceri, ma anche di concerti alla Casa Bianca di Nixon, insomma una vita complessa, travagliata, afflitta anche da lunghi problemi di salute, e di questa vita complessa troviamo la cronaca in questo libro di Turner, che si conclude con la discografia completa del cantante. Abbandoniamo la musica con una strenna milanese. Vi propongo Milano, le grandi famiglie, nobiltà e borghesia, le radici del carattere milanese lombardo. È pubblicato da Edizioni Celip, 352 pagine, 110 euro. Questo libro, curato da Roberta Cordani, è l'ultimo di una serie di volumi che sono stati dedicati negli anni a Milano. Quest'anno troviamo qui una serie di saggi, splendidamente illustrati come sempre, che nel 2008 affrontano il tema della presenza, del ruolo, dell'influsso e dell'ascito delle grandi famiglie a Milano. Nonostante ci abbia scritto qualche riga anch'io, il libro mi sento di raccomandarvelo perché lo trovo molto interessante. Molte infatti delle realizzazioni di cui si parla da parte delle grandi famiglie milanesi sono ancora presenti nella vita di Milano, e non soltanto realizzazioni fisiche, i palazzi, le chiese, le ville, ma anche interventi di carattere sociale. In fondo l'H Granda, l'Ospedal Maggiore o il Pio Albergo Trivulzio sono tutte realizzazioni che la loro nascita proprio al contributo delle grandi famiglie patrizie. Ma accanto alle grandi famiglie patrizie ci furono poi le grandi famiglie borghesi e imprenditoriali, quelle che hanno fatto il volto della Milano moderna. Famiglie dunque che seppero cambiare, innovare, investire, produrre, accogliere a Milano gente nuova, fare di questa gente nuova spesso protagonisti dell'aristocrazia lombarda e milanese, e che quasi sempre si preoccuparono di lasciare un segno nella città. E questa credo sia l'eredità principale di queste grandi famiglie che Milano ha il bisogno di recuperare. Infine un suggerimento per avvicinarci all'arte contemporanea: La nascita dell'arte contemporanea 1946-1968. Questo è un libro curato da Valerio Terraroli e pubblicato da Schirà, 448 pagine, 60 euro. Qui vari autori passano in rassegna le grandi scuole dell'arte contemporanea, dall'informale al minimalismo, e naturalmente il libro è ricco di un corredo iconografico particolarmente appassionante che ci permette di cogliere la ricchezza e spesso anche la contraddittorietà delle correnti che hanno fatto il mondo e l'arte del mondo nel quale ci troviamo. A uno dei protagonisti tra l'altro di questo periodo, Alberto Burri, è dedicata la mostra che è in corso alla Triennale di Milano fino all'8 febbraio 2009. Un appuntamento importante per accostarci a un artista caratterizzato, scrive in questo libro Gillo Dorfles, dalla ricerca costante di un ordine spaziale entro cui ricondurre a unità materia, segno e gesto. Ma naturalmente nel libro non trovate solo Burri, ma troverete tutti i grandi protagonisti di un periodo in cui non soltanto cambia il panorama dell'arte, ma si modifica radicalmente l'equilibrio del gusto e soprattutto avviene il trapasso definitivo dell'influenza nel campo artistico dall'Europa agli Stati Uniti, quegli Stati Uniti che negli anni della Seconda Guerra Mondiale avevano accolto tanti artisti fuggiti dal nazifascismo. Vi voglio segnalare adesso non solo delle strenne ma soprattutto delle offerte speciali. Cominciamo con gli appassionati di scrittori greci e latini, che possono trovare nei volumi della Fondazione Lorenzo Valla pubblicati da Mondadori alcuni titoli interessanti. Nel 2008 per esempio sono usciti La storia degli inglesi di Beda e L'Edipo a Colono di Sofocle. Questi volumi, che costano normalmente 27 euro e che l'anno prossimo ne costeranno 30, sono in vendita in questo periodo a 20 euro. Anche i Meridiani di Mondadori offrono una proposta particolare: lo sconto è il 29%, potete comprare qualunque volume a 55 euro. I più recenti per esempio sono i tre volumi sui poeti della scuola siciliana, o i due volumi dedicati alle opere di Piero Chiara, o ancora le storie e leggende chassidiche di Martin Buber, ripeto, Meridiani a 55 euro. Il saggiatore propone lo sconto il 20% su alcuni titoli, per esempio c'è l'opera in CD e video, guida l'ascolto di tutte le opere liriche di Livio Giudici, che normalmente costa 65 euro. Dedalo a tutti i lettori che acquistano direttamente dal sito www.edizionidedalo.it e fa lo sconto del 15% e presenta alcuni volumi con uno sconto del 30%. Poi c'è l'offerta di Kowalski, che nelle librerie Feltrinelli vende le proprie edizioni con lo sconto del 30%. Stampa Alternativa promuove con lo sconto del 20%. In queste edizioni sono usciti per esempio di recente Zorro Kid, tutte le avventure del Vendicatore Mascherato, e sono i fumetti di Benito Iacovitti, costa 23 euro il volume. C'è anche una nuova edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, Carol con le illustrazioni a colori di Arthur Rankham e la nuova traduzione a cura di Carla Muschio. Questo libro costa 16 euro. Poi c'è Fandango che fa il 20% di sconto per i libri acquistati sul sito, spendendo però più di 40 euro. E Newton Compton promuove circa 60 titoli, sui quali c'è uno sconto del 15% sull'acquisto di un libro, sconto che sale al 25% se si acquistano due libri. Queste offerte potete trovarle in libreria. Poi c'è Schirà che offre uno sconto fra il 30 e il 75% sui titoli più importanti nelle proprie librerie a Milano, al Palazzo Casati Stampa in via Torino, a Bologna al Museo d'Arte Contemporanea Mambo, a Genova a Palazzo Ducale, oppure sul sito di Schirà. E infine un'altra offerta che viene dalla casa editrice Carta, nel proprio spaccio a Milano in via della Moscova 27, vendono i libri al 50%. Carta presenta molti libri, soprattutto nel campo dell'editoria d'arte, dell'arte contemporanea. Vi segnalo per esempio Imaging Cube di Sandro Miller, 160 pagine, 47 euro, un reportage fotografico sulla vita nell'isola caraibica. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. A questo punto sentiamo un consiglio speciale per i regali di Natale. Un libro per Natale. Oggi la segnalazione viene da un'attrice, Andrea Jonasson, che in questo periodo è in scena a Milano al Piccolo Teatro con La storia della bambola abbandonata, uno spettacolo di Giorgio Strehler che lei stessa ha ripresa. Lo spettacolo fu tratto da Alfonso Sastre e Bertolt Brecht. Uno spettacolo particolare perché in scena, assieme ad Andrea Jonasson appunto e ad attori professionisti, ci sono dei bambini della scuola primaria che sono stati preparati attraverso dei laboratori. Buongiorno alla signora Jonasson. Buongiorno signor Carrubba. Allora, ma io per esempio comincio subito naturalmente con un libro che è uscito l'anno scorso, un libro di mio marito che l'hanno fatto su mio marito, che io però trovo bellissimo perché è molto, sono tanti scritti politici e anche civili di Giorgio Strehler. Sì. E c'è molta attualità, che sono scritti che lui ha fatto tra il 70 e il 90, eccetera eccetera. Il libro si chiama Nessuno è incolpevole, editore Melampo. Trovo molto interessante che ci sono cose veramente, i pensieri politici di Giorgio anche sulla politica europea, c'è molta attualità, ma moltissima attualità oggi. Sembra scritto qualche cosa, sembra scritto anche oggi. Questo sarebbe un libro. Poi un libro che non è un libro grande, però delizioso, e molte sono schegge di vita, eccetera, eccetera, di Giulio Casale, che si chiama Intanto corro, è uscito dalla Garzanti. E poi un libro che mi voglio regalare io adesso e voglio leggerlo, mi piace il titolo ma poi mi piace l'autore, è David Grossman, che il titolo è A un cerbiatto somiglia il mio amore, che è uscito da Mondadori. Un altro, che naturalmente anche questo non è di oggi, però un altro che mi piace molto è di Walter Veltroni, che si chiama La scoperta dell'alba, che è uscito da Rizzoli. Poi naturalmente, posso dirlo anche questo? Sì. È un libricino che è molto bene, è importante per i bambini. E io sto facendo La storia della bambola abbandonata, che il testo è di naturalmente lavorato da Giorgio Strehler su testi di Bertolt Brecht. Lo facciamo in teatro adesso, La storia della bambola abbandonata, però è uscito dalla Archinto, Rosalina Archinto. È un bel libricino per bambini. Grazie e buon Natale, signora Jonasson. Buon Natale a lei, a tutti. Allora, ricordo i titoli che ha segnalato Andrea Jonasson. Di Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole, scritti civili e politici, pubblicato da Melampo, 230 pagine, 16 euro. Di Giulio Casale, Intanto corre, Garzanti, 144 pagine, 14 euro. A un cerbiatto somiglia al mio amore, il libro di David Grossman è pubblicato da Mondadori, 782 pagine, 17,60 euro. di Walter Veltroni, La scoperta dell'alba, 150 pagine pubblicate da Rizzoli, 8,50 euro, e infine il libro, possiamo considerarlo un confettino, il libro dal quale tratto lo spettacolo in corso in queste settimane al Piccolo Teatro di Milano, La storia della bambola abbandonata di Giorgio Streller, è pubblicato da Archinto, 96 pagine, 10 euro. Passiamo dai pittori e dagli architetti ai giornalisti, e in particolare ad alcuni mostri sacri del giornalismo italiano. Cominciamo con Oriana Fallaci, di cui viene ripubblicata l'intervista con la storia, un'edizione aggiornata della celebre serie di interviste coi potenti della terra, pubblicata da Rizzoli, 882 pagine, 14 euro. Troviamo qui 27 personaggi che hanno fatto il Novecento, intervistati dalla grande giornalista, che riesce sempre a cogliere un aspetto inedito dalle persone con cui si trovava a confronto. E lei stessa spiega in queste righe che adesso vi propongo come si comportava in queste occasioni. Io non mi sento, né riuscirò mai a sentirmi, un freddo registratore di quel che ascolto e che vedo. Su ogni esperienza professionale lascio brandelli d'anima. A quel che ascolto e che vedo, partecipo come se la cosa mi riguardasse personalmente o dovessi prendere posizione. Infatti la prendo sempre, in base a una precisa scelta morale. E dai 27 personaggi non mi recai col distacco dell'anatomista o del cronista imperturbabile. Mi recai oppressa da mille rabbie, mille interrogativi, che prima di investire loro investivano me stessa, e con la speranza di comprendere in che modo, stando al potere o avversandolo, essi determinano il nostro destino. Per esempio, la storia è fatta da tutti o da pochi? Dipende da leggi universali o da alcuni individui e basta? E quindi dalla Fallaci abbiamo con questo libro non soltanto una grande lezione di storia, anche per le pagine di approfondimento che precedono ogni incontro, ma una straordinaria lezione di giornalismo, la stessa che ci impartisce Indro Montanelli in un altro libro, sempre pubblicato da Rizzoli, che si intitola La mia eredità sono io, pagine da un secolo, a cura di Paolo Di Paolo, 644 pagine, 12 euro. Qui troviamo alcune pagine delle grandi corrispondenze di Montanelli, dall'inizio della carriera fino alla fondazione del giornale, e poi della Voce, i memorabili incontri rigorosamente in ordine alfabetico con i protagonisti del Novecento e infine alcune riflessioni sul carattere degli italiani, tema al quale Montanelli dedicò molte righe tormentate e polemiche, parlando del nostro popolo come un popolo animato da intelligenza stupida, parlando di Italia retorica e filodrammatica, parlando di italiani che a furia di comportarsi in modo ingegnoso, di considerarci geniali sempre e comunque, rischiamo di comportarci da cretini. Insomma, lo stile fulminante che tutti ben ricordiamo di Montanelli, riassunto in questo tomo. E infine un'antologia del miglior giornalismo italiano con Professione Reporter, il giornalismo d'inchiesta nell'Italia del dopoguerra. Il libro è curato da Filippo Maria Battaglia e Beppe Benvenuto, Rizzoli, 656 pagine, 15 euro. Qui troviamo i grandi nomi e le storiche pagine della cronaca italiana. Alcuni di questi nomi sono ancora felicemente in esercizio: Giorgio Bocchi, Eugenio Scalfari, Piero Ottone, Giovanni Russo, Giampaolo Pansa. Molti altri sono scomparsi e anche loro hanno fatto la storia del giornalismo italiano. Non posso ricordarli tutti, ricordo solo un nome, quello di Walter Tobagi. Ritroviamo soprattutto le pagine più intense del giornalismo italiano, legate ai eventi dal 1946 al 1989, dalla liberazione dal dopoguerra fino alla fine del Partito Comunista. Soprattutto ritroviamo il passaggio da un'epoca eroica del giornalismo a quella attuale, nella quale, scrive nella prefazione Beppe Benvenuto, il giornalismo fa campagne ed è tentato dal protagonismo politico, arrivando così a un giornalismo un po' prevedibile e a rischio di uniformità. Aggiunge Benvenuto: a complicare la situazione contribuisce anche una diffusa opacità nella scrittura giornalistica, una medietà magari compita e virtuosa, ma che non aiuta e forse scoraggia quell'elemento romantico e solitario che è spesso la molla iniziale di ogni personale scrittura d'inchiesta. Quindi, se conoscete qualche giornalista che scrive male o qualche ragazzo che vuol fare il giornalista, questo è il regalo che fa per loro. E a questo punto il confettino. di Gianni Rodari è uscito Il pianeta degli alberi di Natale, è pubblicato da Einaudi ed è illustrato da Bruno Munari, 142 pagine, 15,50 euro, due nomi famosissimi, un classico di Rodari che racconta la storia stralunata della scoperta con parole e immagini di un posto felice dove tutti i giorni è Natale. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniela Casagrande in redazione, Valeria Bernardi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, passo la linea al respiro di Laura Bettini, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.